GR24, il sole 24 ore. Ufficiale la scoperta della particella di Dio. È il giorno dell'incontro tra Monti e Merkel dopo il vertice europeo. Conferma della Camera la fiducia al ministro Fornero. Le ecomafie non conoscono crisi, aumentano i reati, ma anche gli arresti. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Ufficiale quindi la scoperta della particella di Dio, il bosone di Higgs, grazie al quale ogni cosa ha una massa. È un momento indimenticabile per la fisica, forse lo ricorderemo come l'ora X. Oggi infatti in un'atmosfera elettrica i fisici del CERN hanno comunicato gli ultimi risultati della loro caccia alla particella di Dio, il bosone di X. Sono stati sobri, nonostante il palpabile entusiasmo. Hanno annunciato che è stata scoperta una particella che sembra essere il bosone di X, ma che allo stato attuale potrebbe ancora essere qualcosa d'altro. Di certo i sofisticatissimi e giganteschi apparati del CERN hanno captato la firma di qualcosa di mai osservato prima e c'è meno di una possibilità su un milione che si tratti di un abbaglio. Oggi è il giorno della celebrazione, ma da domani la fisica affronterà una nuova grande sfida: guardare in faccia il nuovo venuto e verificare ogni dettaglio del suo volto. Bisognerà capire se è esattamente come i fisici se lo aspettavano e in caso contrario vedere in cosa è diverso. Basterebbero dettagli minimi per cambiare il modo in cui gli scienziati pensano che funzioni l'universo. Alcuni indizi fanno pensare che queste differenze possano davvero esserci, ma anche se la particella di Dio risulterà essere esattamente come si pensava, i fisici non potranno dormire sonni tranquilli. Resterà da rispondere a grandi interrogativi. Ad esempio, si dovrà capire cosa sono le misteriose materia oscura ed energia oscura che pervadono l'universo. Barbara Gallavotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ginevra. Nel pomeriggio è previsto l'atteso incontro tra Monti e Merkel a Roma. In diretta Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Si incontrano dopo Bruxelles, dopo le misure anti-spread, Angela Merkel e Mario Monti per mettere a punto i provvedimenti per la crescita nell'Eurozona. Il premier italiano interviene oggi sul Frankfurt Allgemeine Zeitung. Nessuna sconfitta della cancelliera precisa. I giornali avrebbero dovuto scrivere Angela più Mario, un passo in avanti nella politica economica europea. Nel vertice di oggi a Villa Madama l'accordo sullo scudo anti-spread e l'utilizzo del fondo salva stati devono essere tradotti nei fatti. Però ricordiamo che ci sono anche i pareri negativi di Finlandia e Olanda che condividono la tripla A con la Germania. La crescita, garantisce allora Monti, deve avvenire non a scapito della disciplina di bilancio. E riguardo al suo governo, il premier alle prese con la spending review precisa che è impossibile riformare il paese dal basso in alto in un anno e quattro mesi. Spera però che il suo esecutivo possa portare l'Italia fuori dalla crisi finanziaria. Ed è proprio il dopo Monti a preoccupare l'Europa. Fanno paura le fiammate anti-europeiste di Berlusconi e Grilli. I paesi virtuosi dell'Eurozona vogliono vincolare le misure anti-spread alla sorveglianza di una troica sul paese assistito. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel primo trimestre del 2012 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stato pari all'8% del PIL, in crescita sul 7% del corrispondente trimestre del 2011. Lo comunica l'Istat sottolineando come il dato è il peggiore dal 2009. E ora colleghiamoci con Valeria De Rosa per l'andamento dei mercati finanziari. Come sta andando la borsa, Valeria? Valentina, in questo momento sempre segno meno e si appesantiscono leggermente le flessioni su tutti i listini europei. Per quel che riguarda Milano, sicuramente il dato relativo ai conti pubblici ha fatto la sua parte, lo dicevi tu poco fa, dato peggiore dal 2009, questo a causa della maggior spesa per interessi e delle minori entrate. Milano perde poco meno di un punto percentuale, Parigi cede lo 0,67%, Francoforte lo 0,72%, Londra riesce a resistere con una flessione dello 0,17%. Diciamo che comunque in generale i listini sono in grande attesa per quanto deciderà domani la Banca Centrale Europea, che potrebbe tagliare il costo del denaro, che è fermo all'1%, e questa misura ovviamente servirebbe da stimolo alla crescita e quindi per l'economia europea e non solo europea. Velocemente anche uno sguardo al differenziale BTP Bund, che dopo il dato relativo ai conti pubblici ha registrato un aumento, 423 punti base in questo istante. Per i mercati è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. E ora andiamo alla Camera, dove è stata respinta la mozione di sfiducia contro il ministro del lavoro Fornero. Ma per tutti i particolari, Anna Marino. Sì, buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori. L'aula della Camera conferma la fiducia al ministro del welfare Elsa Fornero, bocciando le mozioni presentate da IDV e Lega. I voti a favore sono stati 88, 435 contrari, 18 gli astenuti. In precedenza le dichiarazioni di voto sulla mozione contro il ministro Fornero sono state in linea con le diverse previsioni della vigilia. Sul fronte dei favorevoli alla sfiducia del ministro Fornero, netto il leader dell'IDV, Antonio Di Pietro, che prima ha sottolineato che si tratta di una mozione individuale e non per le politiche generali del governo, poi ha motivato: il ministro Fornero ha commesso un imbroglio gravissimo, ha affermato il falso, dice, ha mentito sapendo di mentire perché aveva ricevuto in data antecedente le sue affermazioni sui 65.000 esodati una nota dell'INPS in cui si diceva che erano oltre 300.000. Durezza con il ministro Fornero anche da parte della Lega, con il capogruppo del Carroccio Giampaolo Dozzo, secondo cui non è il ministro del lavoro ma della disoccupazione. Ma sul fronte appunto della difesa del lavoro del ministro, in prima linea Giuliano Cazzola del PDL afferma che il voto convinto del suo partito contro la mozione di sfiducia in favore del governo che avrebbe problemi con un voto di sfiducia verso il ministro Fornero, di cui va difeso e ha sottolineato l'operato. Infine, contro la sfiducia si sono pronunciati PD, FLI, Liberal Democratici, Alleanza per l'Italia e Repubblicani. Da segnalare il commento subito del ministro Fornero, che ha subito detto che ha sofferto ma ora è superato e ora continuerò a lavorare come prima. Ed è tutto. Grazie ad Anna Marino. E ora parliamo della spending review. Come sapete, il governo è alle prese con i tagli ai costi. In diretta Andrea Viali. Sì, buongiorno. Dopo l'incontro di ieri con parti sociali ed enti locali, il governo stringe i tempi sulla spending review. Il decreto dovrebbe essere varato in settimana. Palazzo Chigi ieri ha fatto sapere che il provvedimento è ancora in fase di scrittura, ma in base alle ultime bozze è confermata la riduzione del 10% dei dipendenti pubblici, del 20% dei dirigenti. Invece, mentre nella sanità, oltre a vari capitoli di spesa, i tagli riguarderanno anche 30.000 posti letto. Poi le risorse per il Fondo Sanitario Nazionale verranno ridotte di 3 miliardi, la scure del governo poi non risparmierà anche province, uffici giudiziari, auto blu, istruzione, missioni militari all'estero. Sono tutte misure, lo ricordiamo, il cui obiettivo è soprattutto quello di congelare l'aumento dell'IVA previsto a partire da ottobre, IVA che però potrebbe salire anche se soltanto di un punto da gennaio. Contro questo piano del governo i sindacati già minacciano uno sciopero generale, così Monti ci farà sprofondare, ha ripetuto oggi la segretaria generale della CGIL Camusso. Ma sul piede di guerra sono anche gli enti locali, per i quali, lo ricordiamo, si prevedono tagli per circa 7,2 miliardi di euro. Ha fatto sapere oggi l'Unione delle Province che non esclude iniziative contro la spending review. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Un business da 17 miliardi, gestito da 296 clan, 6 in più dell'anno precedente. Lo sostiene il rapporto Ecomafie 2012 di Legambiente. Solo ieri il rapporto Olaf, l'agenzia antifrode dell'Unione Europea, descriveva il 2011 come un anno record per i recuperi di fondi strutturali nella storia della lotta europea alla corruzione. Ma sulle Ecomafie sentiamo il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza. La situazione è allarmante per due o tre motivi. Il primo, perché sono aumentati il numero di reati ascrivibili alle ecomafie. Siamo passati da 30.000 dell'altro anno a 33.000 nel corso del 2011, diciamo. E questo ovviamente in parte è dovuto alla migliorata capacità delle forze dell'ordine e della magistratura di intervenire, in parte però anche al fatto che è aumentata, diciamo, l'infiltrazione delle ecomafie nella economia reale. In una fase di crisi economica questo è un dato allarmante. E poi c'è un secondo problema, nel senso che accanto alle ecomafie sta sempre più emergendo una dimensione di corruzione diffusa, che è un fenomeno generale del paese, ma anche in questo settore comporta gravi problemi. L'impatto della crisi sul mondo della comunicazione e della pubblicità e le strade per provare a superarla sono questi i temi del summit dell'UPA, l'associazione delle imprese che investono in pubblicità, e si è aperto stamane a Milano. La favola è finita, non nascondiamocelo. Il presidente dell'UPA, Sassoli De Bianchi, non usa mezzi termini per raccontare come stanno andando le cose nel mondo della pubblicità. Parla degli andamenti del mercato, che hanno un segno negativo indicibile, sono parole sue, a due cifre. Anche se nelle previsioni l'anno dovrebbe chiudersi con un decisamente negativo, ma meno disastroso, meno 7,5% per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari. Non è un momento facile per il settore, quello in cui si è aperto il summit dell'associazione, a cui fanno capo il 90% delle aziende che investono in comunicazione, per un totale di 16 miliardi all'anno. Un settore non certo ininfluente nella grande sfida di fare salire il prodotto interno lordo, visto che, secondo ricerche citate stamane, gli investimenti pubblicitari costituirebbero il propulsore per ben il 15% del PIL. A rispondere alla domanda come uscire dalla crisi proveranno in questi due giorni economisti e politologi, esperti di relazione internazionale e filosofi. Un primo elemento che emerge riguarda il cambiamento radicale che il nuovo sistema dei media sta chiedendo al mondo della pubblicità. Oggi siamo in grado di misurare l'accesso a 10 device e calcolare l'audience di 15 piattaforme. Per pensare a una comunicazione pubblicitaria efficace non c'è più una grande platea, ma un algoritmo molto complesso, una frammentazione senza precedenti che bisogna capire, conoscere e utilizzare nel modo giusto per disperdere il meno possibile le risorse economiche, a cui, inutile dirlo, le aziende sono sempre più attente. E arriva anche un appello al governo sugli investimenti per la banda larga. 800 milioni, dice Sassoli, persi nella penombra dei ministeri e che rischiano di farci perdere una partita tecnologica di grande importanza. Alessandra Scaglioni, GR24, Sole 24 Ore, Milano. La cronaca che arriva dalla Germania: sono 4 i morti nella sparatoria di oggi a Karlsruhe, in Germania appunto, dove un uomo ha aperto il fuoco contro chi voleva sfrattarlo, si è poi barricato nell'appartamento insieme a degli ostaggi, lo riferisce la televisione tedesca NDTV. Nel 2010 la ricchezza creata in Italia dalle attività turistiche è stata di quasi 83 milioni di euro, cioè il 6% del PIL, lo dice il primo conto satellite, cioè lo studio che Ministero del Turismo e Istat hanno effettuato proprio per valutare gli effetti dell'industria turistica sull'economia italiana. Il ministro Piero Gnudi al microfono di Maria Piera Ceci. Le organizzazioni internazionali stimano che gli effetti indiretti siano 1 a 2. Ogni euro speso direttamente nel turismo ha come contropartita 2 euro spesi nell'economia in generale. Sono numeri importanti, il turismo è uno dei primi asset del nostro paese come attività. Poche attività hanno un valore aggiunto superiore al turismo. Il vero problema purtroppo è che in Italia abbiamo considerato sempre il turismo come una cenerentola, non abbiamo mai fatto una politica del turismo come paese e abbiamo purtroppo fatto pochi investimenti. È stato rinviato oggi il voto al CDA Rai, intanto parla il senatore Paolo Amato del PDL. Di fronte alla situazione di stallo creatasi ieri in commissione di vigilanza Rai e alle giuste rimostranze della pubblica opinione, ha detto poco fa all'Ansa, ho deciso oggi di dare il mio voto alla candidata Flavia Nardelli. E questa era l'ultima notizia per il GR, che torna alle ore 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.